Ludwig di cognome, però il nome non me lo ricordo. E tu, no, ti vai a tirare i bidi tu, ci vuoi fare i guanti conmigo. Così mi aveva fatto la faccia campione del mondo. Non si scherzano, non si scherza con quella gente, Natali, ti posso garantire che non si scherza. Un'altra volta, salendo al corso, ascolta questa scena, stanno salendo Maurizio con Antonella, la moglie, che oggi era la moglie, ma allora erano fidanzati, erano, cerca, e verrà di più, che stava scendendo al corso e loro stavano salendo. Se te lo sei permesso che tu devi cosa a Antonella, c'era la moglie di Maurizio. Caspita, vai la buccia a bassa. Ti la ciappato per la gravata, te la ciappato perché era entrato, dai, te lo buttare che vai a fianco a coso, a capita o Natali. E sta guardando lo buttare. Ti la butto la mattosa a Maurizio, a questi giovani lo bata. Mamma mia, cosa vuoi dire? Te lo sto dicendo, gente che non ci pensavo due volte, no? Le mosche dall'avanti al naso se li cacciavano via subito, senza appigliare troppo tempo, appigliare troppo tempo, Natali. Sì, infatti, lui mi ha tenuto, nel senso che noi tiravamo anche i calci, e allora mi ha detto, sì, se ti vai a riare in medici, così, quei buoni loro mi aveva fatto la faccia campione del mondo, una macchinetta era. E Michele Minori, quello che vendeva i pesci al mercato, lui si è conosciuto da Michele Sempre Budiche, però anche vera, noi lo chiamiamo Michele Manno e Michele Minori, no? Perché Michele Manno era un portiere, grande portiere, veramente, ha giocato anche categorie di una certa importanza. E invece Michele Piccolo era il pugile, quello lì però faceva il pesce vero, quello non era macellaio. Infatti aveva il banco dei pesci, aveva lì al mercato, che poi naturalmente l'ha preso la famiglia, il figlio, dai. E con Guiso Buru non muccava con Guiso, anche quello, perché nel piccolo anche lui aveva fatto un pugilato, era uno che non permetteva di dire qualcosa di offensivo, sarebbe buoni a trarrarti la bocca. E mi pare si chiamava Michele, che poi c'era un carattrezzo di un comune, che su chi ci cura guaglia. Mi pare si chiamava proprio Michele Chissu, chi se l'agno ragno è, non riesce a l'agni cappa cosa era troppo ragno, e per non salire di categoria allora cazzo si ammazzava di allenamento. Quello lì, però era una macchinetta qui dentro. Avanti compagnero, la Sardegna ti ascolta, avanti compagnero, ti ascolti la Sardegna. Non rispondi, peggio baite, avanti Natali. Peggio baite, mi rispongo d'ora lo squelcio, ma lo sicuro. Così dimmi dei frusci io. Andavè, altri tempi, Natali, ormai è tutto diverso. Però di quello mi posso vantare, tutta gente come si deve, tutta gente seria, dove ne do cagaglioli per così dire, come si dice a Sassari e in questa famiglia, assolutamente no. No, qui c'è tutta gente seria, travagliatori, io non so come si dice a Sassari, sì, la voglia, si riconosce. Senti il tuo spagnolo. Uè, buonasera a tutti, dai. Ciao. E beh, Antoine. Sono appena ritornato, adesso vado giù a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? E se non vieni prima di iniziare la partita, che oggi c'è l'Italia-Turchia e me la devo guardare, non lo guardo mai il calcio, ma l'Italia me la guardo sempre. Ok, dai io vado a lavarmi, a mangiare, che cosa c'è qui dentro, ci sentiamo dopo. Ciao Antu, ciao. Avanti giù. Ok, ciao a tu, ciao. Buon appetito. Così è Natali, proprio ci siamo. Sì, adesso qua un po' anch'io scendo per cenare, così almeno poi mi metto comodo, il salone, nella poltrona, tengo un televisore più grande che ho. Si vede una meraviglia. Tra l'altro anche cosa, il formato sport, messo al formato sport, e questi che c'è in campo. Alla grande la salita. Sì, è un grillo. E anche io me l'ho comprato grande perché ce l'avevo piccolino con il televisore e l'ho regalato a un'amica di mia moglie. Lui, di chi è schermo piatto, moderno. E io me l'ho comprato più grande, infatti me la vedo con gusto la partita adesso, quando inizia. Gianfranco ci ha abbandonati, vabbè là, anche io me ne passo in quei reti. Sono già le 8 meno 10. Sì, le 8 meno 10, sì. Manca un minuto alle 8 meno 10. È vero, e vabbè là. Allora, grazie per la chiacchierata, guarda, anch'io adesso scendo, così incominciamo a cenare e dopodiché ho tutto il tempo di mettermi comodo davanti alla TV per vedere appunto questa partita che inizia oggi, la giornata di apertura del campionato europeo 2020, non 2021, no? Campionato europeo 2020, perché era stato spostato quest'anno al 2021 a causa della pandemia. Va bene Natali, grazie ancora alla chiacchierata, saluti in casa, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, a tanto, alle prossime. Ciao Claudio. Ciao Claudio, alle prossime. Ciao ragazzi, a presto. Ciao ciao Cla, buona partita. Grazie, ciao ciao. Attento, c'è qualcuno? 110, c'è qualcuno? Roberto, sto mangiando, dopo ci sono io, ok? 110, qualcuno su 10? Roberto, sto mangiando, ci sentiamo dopo. Rimango un po' acceso, che poi devo mangiare anch'io, che poi c'è la partita, oggi gioca la nazionale, dai. Ok, capa. Buon appetito. Ciao. Che avanti? Andiamo bene, andiamo! Brecco Italia! Buonasera, compagno, my name is Roberto. Sardini Island, QSL, your nation please. Repeat, compagno. Ma cazzo, fammi viaggi. Ho capito se è spagnolo o portoghese, che non si sa bene, non si capisce bene. Non lo so, no. Poco fa c'era uno di Andover, olandese, di Andover, stavo parlando, mi ha parlato un pochettino, parlava bene in inglese, ci siamo riusciti a far capire. Capa, non ho mai imparato l'inglese. Io la lingua madre italiano è sassarizzo e il sardo capisco. Beh, ero gagliaritano. Ma cosa è gagliaritano? Lo capisco perché ho amici lì e quindi a furia intendirlo l'ho imparato. No, io parlo sassarese abbastanza bene, diciamo, perché a casa parliamo tutti sassarese, da sempre, e anche se è diverso il sassarese, è vero, antico, molte volte diciamo tante fesserie, perché quelli proprio gli antichi, le persone anziane, molte parole si mettono a ridere quando lo dici. L'italiano discretamente, qualcosa d'inglese, perché a scuola l'ho studiato, poi parlando con qualcuno ti riesci a arrangiare, quando vai fuori, e qualcosina di spagnolo che è abbastanza simile al nostro, sardo o niente. Anche se i miei nonni erano di Furia, non erano sassaresi, nonni materni, e loro parlavano in sardo, anche se ha vissuto sempre in Furia mio nonno, però le origini era sardo proprio, parlavano in sardo in casa. Di dove era tuo nonno? Mio nonno è sempre stato Furia perché la guardia carceraria, è nato però a Frulinas, il nonno materno, nonno e nonno erano di Frulinas, infatti a casa di mio nonno con tutti i parenti loro parlavano in sardo, io quasi niente, sardo proprio zero assoluto. Il sassarese l'abbiamo sempre parlato perché in casa nostra si parla solo sassarese, mio padre difficilmente lo sente in italiano. erano i sassaresi di una buccia, quindi logicamente parlo in sassarese, poi magari abituato in officina all'antica. Loro in casa loro si parlavano sempre, a parte che i genitori gli davano di lì, non è come noi, le vostre anzi si dava al padre e alla madre. E tutta dalla parte di mio padre sino ai Trisloni, che so io, sono tutti sassaresi, sassaresi, erano proprio il centro storico, quella zona dietro l'università, piccolo Marchetto, piccolo Sasso, loro hanno abbiamo unito, hanno vissuto sempre di loro. Mentre mia mamma, anche se è sarda, però è nata fuori, mia mamma buonanima, è nata, perché mio nonno era sempre fuori a Cassino, infatti dalla parte di mia mamma sono tutti nati in Roma, Cassino, quelle zone lì, perché mio nonno era guardia carceraria, ha girato tutta l'Italia, ed è capitato che quando è nata mia mamma erano fuori di lì. Gabba, no, noi siamo, come si dice, non so cosa sareggio, vabbè. Mia madre è sassaresa, babbo sì vabbè, è qua, però di Santa Maria Coghinas, mia nonna parlava il gallurese, parlava, e capisco anche molto bene il dialetto gallurese. Sì, infatti, poi se c'è qualcuno, no, ma noi in casa nostra proprio niente, mia mamma con le sorelle qualche volta parlavano in sardo, però tra di loro, ma poche parole, perché non è che si vedessero sempre, però in casa nostra solo sassaresa, infatti mi dite molte volte, ma poi tu un sardo, io ho amici continentali di tante parti anche di altri, ma è possibile che tu non parli il sardo? No, io non lo conosco, non ho mai parlato qualche parola così, le parole principali, ma se tu sei di sentire una discussione, che stai dicendo? Comprendo io ya. Poi se parli il gallurese peggio che mai, c'è da dire che il vero sardo è quello lì dal gallurese, e poi ci sono un po' impasticciati tutti qua. Diverso è, noi cioè, per lui continentali noi siamo tutti quanti sardi, se parliamo il sardo, loro dicono così, poi la distinzione se uno lo sa, uno è sassareso, l'altro accento su 5, l'altro è butto d'orreso, cambia un po', l'altro è gaddureso, l'altro è... cioè, però per i continentali noi parliamo il sardo, punto. Ma i sassarese lo parlano solo Sassari, Sorso, Porto Torres e poi l'Argentiera, diciamo quel paese di Tintino, cose così, e bu, da nessun'altra parte lo parlano i sassarese, tutti sputi a Sennori, a Ossi, Tici, tutti i e Ossi, cioè Sennori e Sorso sono attaccanti, eppure parlano tutti il sardo. Noi siamo l'unico paese, Porto Torres, e Sorso, Sassari, Porto Torres e cosa, e sono tre paesi che parlano, gli unici che parlano i sassarese, eppure Borgate, vabbè, tutti i Mancali, i Tintino, eccetera, eccetera, però sono tutto i sassarese, e boh, mentre dalle altre parti della Sardegna poi ci sono il Ludorese, il Gallurese, il Marmaricino, poi ci sono tutti questi che hanno un po' di varianti del sardo. Ma a me dalla morte si gozami, è la stessa cosa, cioè, noi parliamo, questa parte qua parla quel tipo di dialetto, poi scendi giù a Campidano, là che tutti là così parlano da là in poi parlano rugagliaritano cioè che poi a Oristano è quasi uguale, non è che cambi molto. Sì, Oristano è simile a cagliaritano, ma non è proprio come sassarese, il sassarese è proprio, c'ha molti vocaboli. Io ho, vabbè, molto, mio padrino che era il numero uno sul coso, ha fatto tanti libri, proprio un professore di lingua sarda e lingua sassarese, lui ti dava proprio la grammatica, lui ti diceva i verbi, gli accenti, infatti tu io quando avevo qualche dubbio, mi spiegava lui, se c'è la B devi mettere la A, per dire, se c'è la M devi mettere la H, e sapeva tutte queste regole che ti insegna la scuola, la grammatica, le doppie, mica scrivere il sassarese non è per tutti, lui quando faceva le correzioni dei libri, c'era gente che ci metteva a scrivere i libri in sassarese, me ne faceva dei pucchi di errori, il calendario, avevamo fatto il calendario della Nuova Sardegna tanti tanti anni fa, lui mi ha fatto vedere tanti di quelli errori, ho detto, leggi qua, a parte non si scrive così questo, avevano sbagliato anche Capodanno, non mi ricordo, Capodanno, non si scrive così, bisogna scrivere un altro modo, lui mi ha fatto vedere, oppure a Bagorrente, mi ha spiegato come si scriveva, perché uno dice a Bagurrenti, l'altro a Bagurrente, poi Pusudorra, si può scrivere in due modi, se è attaccato si scrive in un modo, se è separato si scrive, me le ha tutte spiegate, perché lui sapeva scrivere, non è dire saperlo parlare, proprio lui era un maestro sul coso, non so se mi ha sentito nominare, il mio figlio era pure da Amatore, era di Amatore, Fuis, si chiama Maestro Fuis, ma era un luminare, e poi c'è un amico che ha fatto il vocabolario sassarese, due volumi, che è morto, non è riuscito a completarlo, a farlo stampare, però l'hanno già stampato qualche mese fa, 18.000 vocaboli, non so cosa vuol dire 18.000 parole in sassarese. Vera neghizzi che c'è fazziani rigosi, c'è quante queste cose qua, c'erano allora, ma guarda, a me mi fate andare una rabbia. Cioè, questi ragazzini di adesso, tu a molti li parli sassarese, non capiscono un H di cosa di cosa stai dicendo. Dico, ma non inizi di chi sei? Guarda, lo sai quanto si arrabbia mio babbo, perché lui è proprio, infatti scriveva commedie in sassarese, hanno pubblicato un sacco di roba sua, non col nome suo, col nome di un'altra persona che non ne fregava niente a mettersi in mostra, però mio padre ne ha fatto un bel di commedie, di poesia, hanno vinto un sacco di premi a nome di altri, perché non ne fregava niente, te li prego. Ci sono mie nipotine, tre nipotine, ma sono manni, sono nate e cresciute negli Stati Uniti a Filadelfia, mia cugina è sassarese e il marito sassarese, proprio sassaresi, loro parlano perfettamente, oltre l'italiano, il sassarese, guai a toccare la lingua sassarese, oltre che l'inglese. Io ho una persona che conosco, che questa si è sposata in Spagna, i figli non sanno dire una parola in italiano, niente, cioè la nonna è disperata, ha detto, ma è possibile che tu a tuoi figli non gli hai insegnato l'italiano? Non sa dire una parola in italiano, sanno solo ciao, ciao nonna, eccetera, le parole elementari. Cioè, ti pare che tu a tuoi figli italiana e marito spagnolo non insegni cacca la lingua italiana? Cosa vuoi fare? Tutti quanti così so, ma io parlo di gente di qua. Un giorno c'era chi si ragazzini così maccotti, che erano i biglietti di Baruguru, ma io ho detto, ma lo vedi, a sai ne ripigli a fare un guru là giù di so. Fai da bravo, che non è giusto pigliare in giro una bacia, non l'abbiamo mandato in te. Non capivano cosa gli stavo dicendo, poi gli ho detto in italiano, ha detto scusa vai. Io lo so, qualcuno anche vergogna, a scuola, per dire, io ho delle mie sorelle insegnanti, loro sono contente quando parlano in sassarese, proprio, molte volte li fanno scrivere dei temi in sassarese per cambiare, dai, delle cose, dice fai un argomento, una poesia, ma c'erano degli insegnanti, ti sgridavano se ti sentivano parlare in sassarese, come molti sgridavano se parlavi in sardo, ma lo raccontavano alle persone, no, non vuole il professore a parlare in sardo, dobbiamo parlare in italiano, c'è gente ignorante, proprio, che aumentare la cultura, nel senso cercare di conservarla, non la futtia nulla. Adesso qualcuno intelligente, professore, piano piano già l'ha capito, devi conservare le tradizioni. Un giorno ho detto un po' di parole in sassarese, perché io ho sempre parlato a casa, poi abituato, è successo pure a me tanti anni fa a scuola, e ti parla sassarese, gli ho detto, ma ciao maestro, ma la pipina mi ha scocciato, sai come sono fatto io, a giù mi hanno bisogno una sospensione, ha detto, d'acqua fa una cosa, vai scimini da guru, l'ha giudito, va, che parlo come voglio, di poco non prendo una sospensione, poi una brea, ha detto mamma, un casino. Ma erano insegnanti ignoranti, adesso bisogna essere anche un copettino di mente aperta, cacchio. Però ti fanno studiare le lingue straniere, molte volte che non ti ha futti nudo, il francese è una lingua inutile, perché mi dici l'inglese, a scuola ti può servire, perché cacchio, ormai l'inglese è da tutte le parti, se c'è qualche cosa, non dico se uno viaggia, però tutte le cose, devi aprire un manuale d'uso, una istruzione di qualunque apparecchio, di cose, la maggior parte sono sempre in inglese, la lingua principale, poi qualche volta c'è l'italiano, ma se uno un po' riesce a capire qualcosa, francese ormai è una lingua decaduta, la parlano solo loro e nelle colonie, boh. Nel mondo la lingua più importante a livello di dialogo, tu sei padre adesso quando ti fai di ex, l'unica cosa per farti capire se sono rumeni, tedeschi, tedeschi e coso, devi parlare almeno qualche parola in tedesco, scusa, in inglese. Mentre se parli francese già ti comprendi solo, a parte che io non l'ho mai studiato il francese, non lo so, però è una lingua interessante l'inglese, ti può essere utile, ma quando vai a scuola ti fanno studiare il francese, a che cacchio serve il francese? Ma a me non è mai piaciuto la verità, mai. No. Francese, poi a me i francesi non è che mi piacciono molto, come ma è un drogiusciabile qua. No, non è che a me non è piaciuto, poi sono troppo presuntuosi, cioè hanno un senso di superiorità, mai piaciuto, al contrario dei tedeschi, che molte volte se lo possono permettere, perché su certe cose hanno da insegnarci tanto, soprattutto il modo di comportarsi, l'educazione, il rispetto, e noi da quel punto di vista abbiamo molto da imparare, però non hanno mai senso di superiorità verso gli italiani. Quando vengono qua o se vai da loro ti rispettano di più, se vai in Francia cacchio, noi sembriamo dei beduini, dei coso, dei zingari, cioè ci guardano in un senso di me se arrivi degli italiani, come per dire se arrivi dei profughi. Già lo so, già tedeschi a noi ci devono, non sai, non c'è, cioè, rispettare al massimo pure. Perché anche noi, si credono assai, si credono, però anche noi se ci mettiamo sappiamo fare le macchine, sappiamo fare tutto, quindi non funziona la testa di spavalde. No, vabbè, quello è un altro discorso, a livello di inventiva non c'era nel mondo di intelligenza come l'italiano, era tutto, in tutti i campi, dall'arte, la musica, la scienza, non esiste meglio dell'italiano, mediamente parliamo, a livello, abbiamo insegnato a tutto il mondo, però se noi parliamo di organizzazione sociale, per dire ospedali, e cosa ti posso dire, stazioni ferroviarie, cose del genere, hanno molto da insegnare, puntualità, pulizia, noi siamo una massa di randaggi, noi viviamo così alla giornata, io parlo sempre in generale, poi ci sono altre persone, tu andi in una stazione italiana, vedi tutto disordine, tutto rampato, poi in una stazione tedesca tutto perfetto, puntuale, ordinato, i tempi rispettano le puntualità, i pullman, gli aerei, tutto, cacchio, arrivi da lui e sembra che stia andando in coso, in Brasile, non in Italia. Forse Brasile è pure un meglio, ma qui c'è tutta la questione di magna, perché noi potevamo andare bene, potevamo andare, un'altra questione pure di magna. Il problema dell'Italia grosso è quello, perché se no noi potevamo andare molto molto meglio. Però è cioè che per fare l'asfalto in un circuito c'è stata una vergogna, c'è stata. Per fare l'asfalto in Inghilterra, a Silverstone, l'asfalto del circuito è andata una ditta dall'Italia specializzata, perché in Inghilterra non ci abbiamo fa asfalto. Ma ci credo, ma gli italiani sono i più bravi del mondo, e perché carrozzieri, muratori che vanno in Germania a insegnare, eccetera, in Corsica, per dire, ho amici che vanno a fare gli infissi, ma poi dice che lì non è che ci sono buoni, mobilieri e cose del genere, però fanno per trovare in Italia lo stesso operaio, me ne frega molto, perché dice cosa me ne frega se non è difficile. In Germania e in Inghilterra devono fare il lavoro perfetto, glielo controlla, qua ti va del raddoppio e domani ne c'è tutto. Oh, non se ne vanno, ma chi sa, è un problema di nobbi, mi dice che c'è tracca e baratto, già lo sai com'è la situazione, tracca e baratto, secondo me potrebbero farlo un bel manto stradale, ma è tutta una questione di là. Ma cosa, è tutto disorganizzato, adesso bucano, tutto a posto, fanno il tappo, il rattoppo, dopo 2 mesi tornano in fascia perché devono passare un altro tubo. Dico, non lo puoi fare tutto in una volta, no, poi dopo 4 mesi tornano a capo, lasciamo a perdere. Oh, ma tu, io adesso vado a mangiare perché poi mi guardo la partita, tu non te la guardi? C'è un Rai 1. Sì, Rai 1 c'è oggi, però inizia, la partita inizia alle 9, però alle 8 e 8:30 iniziano la manifestazione, l'inaugurazione, c'è tutto lo spettacolo, c'è tutti, e Netta e Buccelli forse canta qualcosa, fanno l'apertura, perché oggi è la giornata d'apertura dell'europeo. Adesso infatti vado a mangiarmi qualcosa e poi vanno uguale. Beh, ti saluto, vai, se coincide ci sentiamo domani. Ciao ciao, e saluto anche eventuali qua amici in ascolto. Io interrompo, correti da parte mia. Ciao ciao, ci sentiamo. Ah.